Per la sua anatomia, la donna è un uomo incompleto. Aristotele. La donna è un errore della natura, nasce da sperma in cattivo stato. Tommaso d'Aquino. Gli uomini hanno spalle larghe e fianchi stretti, sono dotati di intelligenza. Le donne hanno spalle strette e fianchi larghi per avere figli e rimanere a casa. Martin Lutero. La donna è un animale coi capelli lunghi e il pensiero corto. Schopenhauer. Disse Yahweh alla donna: Tuo marito ti dominerà. Disse Allah a Maometto: Le donne buone sono obbedienti. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, Quali storie ascoltano le cattive ragazze? Quali storie ascoltavate voi? C'era e non c'era? Una ragazza dagli occhi vispi e curiosa che se ne andava a spasso per il mondo con un bel cappuccetto rosso. Cammina, cammina, cammina, cammina. Arriva dentro a un bosco e nel bosco incontra un lupo dal pelo grigio e gli occhi scintillanti. Dov'è che vai? Vado dalla nonna. No. Ah no? No. Vieni con me. Bene, e dove si va? A mangiare. E cosa? Carne al sangue. Mi piace la carne al sangue, bene. Andiamo. Ma che orecchie grandi che hai, un po' pelose. Troppo. Sarebbe meglio tagliarle un po'. Tutti quei peli sono disgustosi. Devo depilarmi. Faresti meglio. E anche i denti sono davvero pieni di tartaro. Tartaro? E proprio grandi. Sì, grandi per mangiarti meglio. No, no. No? No. Perché? Perché hai un alito disgustoso. Puzzo? Tanto? Tantissimo! E non so che fare, non ho neppure il dentifricio! Ma io ho una caramella. Sei fortunato. Prendi. Grazie. Manda giù, manda giù. Manda giù, manda giù. Do un lupetto stecchito. Ingenuo. Non si prendono le caramelle dalle ragazze sconosciute. È questa che avete ascoltato o la versione che abbiamo ascoltato tutte, quella con il cacciatore che arriva, squarta la pancia del lupo, libera la povera Capuccetto e la nonnina. Perché noi come ragazze abbiamo sempre bisogno di cavalieri che ci salvino, che ci portino là dove tutto è sicuro, perché noi in natura siamo così deboli, indifese. E sì, a ben guardare non sono solo centinaia di migliaia di storie che così ci descrivono, ma anche le storie che oggi si leggono nelle scuole così ci definiscono ancora nel 2017. Le ragazze sono comprensive, affettuose, angosciate, emotive, invidiose e pettegole e silenziose in casi eccezionali, mentre i maschi sono forti, coraggiosi, ribelli, audaci e liberi. Non possiamo essere anche noi audaci, ribelli, coraggiosi e libere? Chi regge i nostri passi? Chi ci guida? Quali antenate sussurrano nel tempo? Dal buio del tempo arriva una piccola donna, ribelle e coraggiosa. Il suo nome è Antigone. C'era una ragazza che aveva due fratelli, Eteocle e Polinice, e una sorella, Ismene. I fratelli suoi si fanno la lotta, per il potere lottano, come fanno gli uomini, e succidono, i loro corpi rimangono sul campo, sotto le mura di Tebe. Il re Creonte, lo zio di Antigone, decide che solo Eteocle verrà seppellito. Polinice no. Polinice ha gettato l'esercito contro Tebe. Polinice rimarrà insepolto. E chi disobbedisce all'editto, in prigione o a morte? Nessuno disobbedisce all'editto. Nessuno vuole rischiare la vita. Che legge è? Che legge è che seppellisce un uomo e lascia l'altro divorato dai cani? Antigone non vuole che i corvi vadano a beccare gli occhi del fratello suo come ciliegie rosse. Non vuole che il sangue diventi succo per i topi. Antigone è pronta a partire. Sorella, non andare. Non andare. Antigone, fermati. Noi siamo donne. Creonte ha deciso per noi. A noi tocca obbedire. Cerca di comprendere, sorella. Comprendere. Per tutta la vita ha dovuto comprendere. Antigone la piccola, la pazza. Antigone che scalza si alzava per cercare l'alba. Antigone che si arrampica sugli alberi, che lotta con i ragazzi. Antigone che non indossa il rossetto, che non mette i tacchi. Antigone che non vuole comprendere la legge piccola fatta dagli uomini piccoli. Altre leggi riconosco, sorella mia. Leggi non scritte, leggi più antiche. Io andrò e morirò. Sarà bello morire per il fratello mio. E Antigone nella notte esce dalla città e va sul campo e scava, scava, scava e si rompe le unghie e scava. E versa il latte, il miele e le lacrime e piange fratello suo, e all'alba torna piccola, scalza e spettinata a Tebe, e Creonte lo viene a sapere. Come? La piccola Antigone ha disobbedito, in prigione. Il re ha la corona sulla testa e le guardie intorno. Ma ha paura di quella piccola donna, il re. Ha paura di Antigone. Ha paura di quegli occhi che non hanno paura. Io non sono nata per obbedire alle leggi dell'odio. Riconosco soltanto le leggi dell'amore. Per questo si può morire. Quante Antigoni conoscete? Quante donne hanno detto no? Hanno riconosciuto che altre erano le leggi a cui obbedire? America! L'America della libertà! L'America delle opportunità per tutti, del lavoro per tutti, l'America del 1955, l'America della segregazione razziale, scuole per neri e scuole per bianchi, ospedali per neri e ospedali per bianchi, fontane per neri e fontane per bianchi, e gli autobus? Gli autobus in Alabama, nella città di Montgomery, sono particolari. Se sei un bianco, puoi entrare e accomodarti tranquillamente nei sedili anteriori. Se sei nero, invece, devi uscire, prendere il biglietto ed entrare da dietro. Là in fondo devi stare, là dove stanno le bestie. E in mezzo? E in mezzo è zona grigia. Se sei nero, puoi sederti, ma se entra un bianco, devi alzarti. E il primo dicembre del 1955, Rosa è alla fermata dell'autobus. Ha lavorato tutto il giorno come sarta ai grandi magazzini. Conosce le umiliazioni. Gli autisti, quando vedono salire i neri, dicono: «Ehi, macacche neri! Ehi, vacche nere!» A volte fai il biglietto, scendi per rientrare da dietro, ma l'autobus è ripartito e ti lascia a terra. E non importa. Un ragazzo è stato linciato, una ragazza ha perso la vita. Rosa sta alla fermata e aspetta. Quando arriva l'autobus, l'unico posto libero è in mezzo. E Rosa si siede. Alla fermata successiva entrano tre bianchi. La guardano. Ma Rosa non si muove. «Ehi, negra! Alzati!» Rosa sta ferma. «Hai capito, negra? Alza quelle chiappe!» Rosa rimane immobile. «Allora, devo alzarmi io!» A passi rabbiosi, l'autista arriva a un centimetro dalla faccia di Rosa. «Hai capito, nera? Alzati!» No. Che? No. Guarda che ti posso mettere in prigione, chiamo la polizia. Sì. Lei lo può fare. E alla fermata successiva entra la polizia. I neri rimasti sull'autobus tengono gli occhi bassi, qualcuno scende, si vergogna in silenzio, mastica umiliazione, nessuno dice niente, solo i bianchi sbuffano, questa nera che fa perdere tempo. Gli uomini della polizia la trascinano fuori come fosse una ladra, la ammanettano, la portano in carcere. Dentro la cella di Rosa ci sono altre due donne, altre due nere, una è da 50 giorni dentro, c'è una puzza di piscio, un'umidità, un freddo. Non può comunicare con l'esterno. Ha minacciato suo marito con un'accetta perché la picchiava, ogni giorno la picchiava. Rosa promette, uscirà da lì e la metterà in contatto con un avvocato. Perché Rosa ha le parole, non fa la sarta. A 30 anni ha ricominciato a studiare, è figlia di una maestra. Ha studiato a Montgomery in una scuola condotta da una donna dal viso pallido, Mrs. White, che non le ha insegnato solo la filosofia, la storia, ma anche la coscienza dell'uguaglianza. Bianchi e neri hanno pari dignità. Rosa torna a casa, trova suo marito e il pastore della chiesa battista che lei frequenta. È un giovane che sa infiammare le folle, ma di cui nessuno ancora conosce il nome. Martin Luther King. Rosa scrive un volantino. Un volantino che finisce in 7.000 case. È giusto. È giusto che finiamo in carcere perché ci rifiutiamo di alzare, di perdere il posto. È giusto che ci siano posti per bianchi e per neri. È giusto continuare a subire umiliazioni. È giusto. Possiamo fare qualcosa. È tempo. È tempo di mettere da parte la nostra pazienza per l'uguaglianza. Boicottaggio è la parola d'ordine. Gli autobus devono rimanere vuoti. Andremo a piedi, in bicicletta, sugli asini. Useremo la pigrizia dei nostri piedi al posto della pigrizia dell'anima e ci metteremo a marciare insieme. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on the day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. Ed è un fiume di donne e di uomini. I marciapiedi sono pieni. Le persone che marciano sanno perché marciano e hanno una dignità infinita. Gli uomini e le donne scelgono perché nell'America del 1955 non c'è un'auto parcheggiata in ogni garage. Bisogna andare a piedi, con la pioggia, con il sole, in inverno e in primavera. Perché il boicottaggio non continua per una sola settimana, né per un mese, ma per 381 giorni, fino al fallimento della società degli autobus. E quando Rosa, nel 1956, è davanti alla Corte Suprema, le leggi di segregazione razziale sugli autobus vengono dichiarate illegali. E Rosa ha vinto. Vinto. Perde il lavoro? Sì. Viene minacciata? Deve cambiare città, sì. Viene circondata da giornalisti che ammiccano. È contenta di essere sotto i riflettori, eh? Che cosa faceva prima? Si sa cosa sono buoni a fare le femmine nere. Rosa li guarda dritti negli occhi, inghiotte le umiliazioni e continua. Continuerà a battersi per i diritti civili per tutta la vita. Il 24 ottobre del 2005, alle 7 del mattino, si spegne nel suo bel appartamento di Detroit. Bush dichiara che tutte le bandiere americane vengano messe a mezz'asta in segno di lutto. E sugli autobus a Montgomery i posti vengono lasciati vuoti con un nastro nero in segno di lutto. Il corpo di Rosa viene portato da Detroit a Montgomery e da Montgomery a Washington, alla Casa Bianca. Meglio, nella rotonda del Campidoglio, dove sono stati tutti i presidenti degli Stati Uniti e la prima donna. E 50.000 persone vanno a rendere onore alla madre dei diritti civili. Tre anni dopo, un uomo dalla pelle nera, Barack Hussein Obama, viene eletto presidente degli Stati Uniti. Noi continueremo a marciare, finché la giustizia zampillerà come acqua e la rettitudine come un fiume in piena. E il fuoco di Rosa non si spegne. For me, ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. 1885, giornale di Pittsburgh. A cosa sono buone le ragazze? A che servono le ragazze? Le ragazze devono stare a casa, è una vergogna che le donne ormai si impieghino dappertutto, negli uffici, nelle fabbriche, donne che scrivono, che leggono, che pensano. Le donne sono fatte per allevare i figli. È il giornale di Pittsburgh e a leggere l'articolo è una giovane. Si chiama Elizabeth. Elizabeth ha 21 anni, è orfana di un giudice poligamo che a 6 anni l'ha lasciata orfana insieme a altri 13 fratelli, orfana e poverissima. Elizabeth prende carta e penna e risponde al giornale È profondamente ingiusto che le donne non possano occupare un posto nella società civile. Ogni donna ha un pensiero e un talento, e le donne non sono nate soltanto per allevare i figli. Ed è davvero difficile per una ragazza trovare un posto senza compromessi. Firmato Orfanella Solitaria. La lettera arriva al giornale, ma la sola pubblicazione della lettera di Elizabeth moltiplica la vendita del giornale. Il direttore comprende bene e risponde: cara orfanella solitaria, se vuoi un posto noi siamo disponibili, ti aspettiamo. Elizabeth non sa che sta per cambiare la sua vita. Si presenta davanti al direttore del Pittsburgh Journal. Chi saresti tu? Elizabeth Cochrane, orfanella solitaria. Ma sei una femmina, non un giovanotto. E certo, perché sembro un giovanotto? È avvolta in un bel vestito di seta nera, è composta, lo guarda dritto negli occhi. È perplesso il direttore, la lettera era scritta davvero bene. Come fa una donna a concepire una lettera così ben scritta? Anche le donne possono scrivere, direttore. Si fidi di me e mi dia un posto. Oh, va bene. È una promessa, è una promessa. Se l'hai scritta tu avrai il posto, ma Elizabeth Cochrane è un nome troppo lungo e poi da femmina. Ci vorrebbe un nome che rimane impresso, ecco. Il nome della vecchia canzone è Nellie Bly. Nellie Bly. Mi piace. E Nellie non attende un momento. Propone al direttore di infilarsi là dove stanno le donne al lavoro, in fabbrica, e fa domande che gli altri giornalisti nemmeno riescono a immaginare. Come sono le condizioni di lavoro delle donne? Come sono i datori di lavoro? Com'è avere un impiego? Come si sentono? Cosa soffrono? Cosa sognano? E le donne parlano perché nessuno mai domanda niente a loro. E gli articoli si moltiplicano, 8 articoli sulle condizioni delle donne nelle fabbriche. I datori di lavoro si lamentano, riempiono la redazione di lettere, ma il giornale va esaurito. E Nellie non smette di scrivere. Scrive anche sui matrimoni combinati, sul diritto al divorzio delle donne. Ogni donna deve autodeterminarsi, non può avere imposto l'amore. E anche qui lettere, proteste, ma il giornale esaurito. Le donne l'amano e gli uomini sono incuriositi dalla sagacia di questa ragazza. E cosa si fa quando fai moltiplicare le vendite al giornale? Ricevi una promozione. Promossa Nellie alla rubrica di moda. A scrivere di merletti, pizzetti, piume, gioielli, sagre, feste dei fiori e gossip, perché le donne sono pettegole, si sa. Nellie si annoia subito, riceve $10 invece che 5 ora, ma non le importa, vuole scommettere di più e scrive: cari colleghi, me ne vado a New York, sentirete parlare di me. New York. New York non è un luogo semplice, ma Nellie mira alto, va al New York World. Il direttore è un certo Pulitzer. La guarda e dice: una ragazza che vuole scrivere, hai coraggio. Io non ho tanti posti per i cronisti. E tu di che vorresti scrivere? Vorrei fare un'inchiesta sui manicomi femminili. Sui manicomi? E come pensi di scrivere un'inchiesta sui manicomi? Mi fingo pazza. Ah, no. Ti fai ricoverare? Sì, però tiratemi fuori. Sì, se sai scrivere l'inchiesta, avrai il posto. E Nellie non si fa pregare. Inizia a allenarsi, legge racconti gotici. Si allena davanti allo specchio, strabuzza gli occhi. Poi va per le strade, vestita di stracci, finché finalmente si trova un posto nel dormitorio pubblico. È lì che può esercitare la sua arte, fingersi pazza. Dov'è la mia valigia? Chi ha preso la mia valigia? Dov'è la mia valigia? Datemi la mia valigia! Voglio la mia valigia! Datemi la valigia! Dov'è la valigia? Tu hai preso la mia valigia? Questa è pazza! Chiamate due infermieri! Nelly viene presa e catapultata fuori dal dormitorio, trascinata dentro Blackwell Island. Ci sono 50 porte che si aprono e si richiudono dietro di lei, 50 catenacci. Si entra facile a Blackwell Island, difficile uscire. C'è una camerata con 300 donne, stanno pigiate le une alle altre, immobili, con la schiena alle pareti. Ferme, zitte! Nessuno si muova! Vengono risvegliate alle 5:30 del mattino con secchiate d'acqua gelida. Chi osa muoversi viene picchiato. C'è una vecchia, è cieca, ha freddo, si gela lì dentro. Cerca il tepore del sole alla finestra e gli infermieri la fanno inciampare. Vecchia, qui, vecchia, qui! Una ragazza comincia a piangere, si strappa i capelli. Le viene riempita la bocca di cotone, viene spinta dentro i bagni. È violentata. Nelly ha visto abbastanza. Le donne vengono maltrattate e torturate tutti i giorni. Se non sono pazze, lo diventano lì dentro. Le condizioni igieniche sono spaventose, il cibo è brodaglia rancida. Lei ha smesso di comportarsi in modo ossessivo, ma i medici dicono che è un caso disperato, deve rimanere dentro. 10 lunghissimi giorni. Poi Pulitzer ha un colpo di genio. Aveva mandato una delle sue croniste e manda un avvocato a liberarla. Nelly Bly non è una pazza! Nelly Bly è una delle nostre giornaliste. Ha inventato lei l'inchiesta sotto copertura. La prima donna a inventarsi uno stile. E l'inchiesta sotto copertura frutta 2 articoli straordinari pubblicati in tutto il paese. Vengono denunciate le condizioni spaventose delle donne. E il governo deve stanziare $1 milione per migliorare i manicomi. Ma Nelly non si stanca, è un vulcano, è sempre con la testa in fermento. E di nuovo torna da Pulitzer. Ho letto un romanzo, Il giro del mondo in 80 giorni. Lo fa un uomo, ma io penso che potrei farlo anch'io in meno di 80 giorni. È un'ottima idea, Nelly. Ottima idea, l'affido a un uomo, perché tu sei una donna e si sa, le donne non possono girare sole per il mondo, puoi figurarsi, con tutti quei bauli, le creme di bellezza, i cappellini. Brava, bella pensata, la fa un altro. No, la faccio io per un altro giornale e arriverò prima del suo giornalista. La fai tu. Perché a Nelly non si riesce mai a dire di no. E Nelly convince anche il sarto, perché il preavviso del giornale è di 3 giorni. Al lunedì Pulitzer dice puoi partire e la partenza è giovedì dal porto di New York. Come si fa ad organizzare un viaggio intorno al mondo in 3 giorni? Ma Nelly si organizza, va da sarto e dice voglio un vestito che duri 3 mesi, 3 tipi di stagioni e latitudini diverse. Entro quando, signorina? Stasera. Stasera si può fare. Il sarto combina e Nelly è pronta a partire. Ficca 2 cambi di mutande dentro il baule e solo brogliacci e penne. Dimentica la macchina fotografica, l'unico rammarico. Ma il 14 novembre del 1889, dal porto di New York, Nelly salpa. L'America intera sta scommettendo su quella piccola ragazza di 25 anni. Attraversa tutto l'Atlantico, arriva in Inghilterra e si è ripromessa di andare in Francia a incontrare Verne in persona ad Amiens. E Verne non ci crede che una donna vuole fare quello che lui ha soltanto scritto e concepito in un romanzo. Poi passa a Brindisi e da Brindisi, canale di Suez, vede il luogo stesso in cui gli ebrei hanno attraversato il Mar Rosso, scrive, manda a dispaccio ogni giorno per posta, la gente la legge ovunque in America. Poi passa il Natale vicino al Lebrosario, rimpiange casa. In Cina vede i roghi con cui si avvolgono i morti per far scappare i demoni che abitano il cuore d'ogni cinese. In Giappone si innamora della festa della fioritura dei ciliegi. e della cortesia dei giapponesi. Poi Hong Kong e il Pacifico e la nave e la tempesta e il giuramento con il capitano. Piuttosto morta, ma non voglio tornare perdente. E quando arriva a San Francisco, tutti l'attendono. E a ogni stazione da San Francisco a New York è un tripudio. La gente l'acclama, è una beniamina. Tutti hanno scommesso anche su di lei, vogliono che vinca. E dopo 72 giorni, 6 ore, 11 minuti e 14 secondi, Nelly arriva a New York, si leva il cappello e piange per la felicità. Non perché è tornata a casa, non perché ha fatto il giro del mondo, ma perché ha dimostrato che per le donne tutto è possibile. Ma le inchieste sotto copertura non smettono. Si infila nelle carceri fingendosi ladra. Finisce in mezzo alle strade con le prostitute per comprendere meglio le case delle donne perdute. Finge di essere incinta come ragazza madre con un figlio indesiderato per un'inchiesta sugli orfanotrofi. E quando nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, si fa mandare dall'altra parte del mondo, in trincea, in mezzo agli uomini. È vestita come un soldato, scivola in mezzo al fango, vede i soldati che dormono in mezzo ai morti per non farsi trovare dai nemici, i topi, le lucertole, gli scarafaggi che passano da un cranio all'altro. Ha parole per l'orrore, ha parole per quei corpi spappolati, per l'assurdità della guerra. Scrive, ma è anche imprenditrice. Si sposa con un imprenditore, solo che prendendo il timone cambia le condizioni di lavoro di molti operai. Vuole una biblioteca per ogni industria. Vuole che ci sia uno spazio per il dopolavoro, le scuole serali e uno spazio per i bambini. Siamo all'inizio del Novecento e Nelly non smette di pensare e di scrivere. Afferma che soltanto svelando la verità dei fatti si spingono le persone a cambiare il mondo. E lei, una delle croniste migliori del mondo, ci ha provato. È il 1922 quando Nelly si spegne a 47 anni per una polmonite. Le donne in America hanno il voto da soli 2 anni, in Italia dobbiamo aspettare ancora più di un ventennio. Nel 1922 in Italia abbiamo un mascellone che la pensa un po' diversamente. Le donne non possono accedere a tutte le professioni, non hanno possibilità di sviluppo di carriera. Se si sposano o se rimangono incinte, possono essere licenziate. Le donne non hanno parità previdenziale, non hanno pari diritti nell'educazione dei figli all'interno della famiglia. Le donne possono praticare gli sport, ma non tutti, tutti, tutti. La bicicletta, per esempio. Roba da uomini, no? Troppa libertà, quelle cosce al vento. Non la pensa così una ragazzetta che nasce a pochi chilometri da qui. Alfonsina Morini, un cognome e una garanzia. Alfonsina nasce e ha già voglia di correre. Suo padre è poverissimo, un bracciante, sua madre è una balia. Un giorno il padre va al mercato e non ottiene niente di meglio che una bicicletta. Arriva a casa e Alfonsina, che non ha mai avuto un gioco in vita sua, si innamora della bicicletta, i pedali, il manubrio, le ruote, i raggi. È una macchina del vento, una macchina di libertà. E Alfonsina cade, si sbuccia le ginocchia, ma corre, corre! Alla domenica dice di andare a messa, ma va alle gare e vince sui maschi. Disgraziata questa figlia che ho, disgraziata! Che torni a casa, che facciamo qualcosa, che le facciamo imparare un po' di ricamo, di cucito, che si mette calma. La madre è molto dispiaciuta. Gli uomini in paese dicono che è un diavolo in gonnella, le donne si coprono quando passa. Ma Alfonsina non smette di correre, ha 18 anni, arriva fino al Grand Prix di San Pietroburgo. corre, sì, fuori gara, ma insieme agli uomini. E lo zare è colpito. Le regala una medaglia d'oro. È fallito il progetto della sartina, sua moglie, o meglio, sua madre, si gioca l'asso. La facciamo sposare. Si mette quieta, fa dei bambini, casa. Ma Luigi Strada è davvero innamorato di Alfonsina. E il primo regalo che le fa dopo le nozze è una bicicletta. Pedala, Alfonsina, pedala! E Alfonsina viene allenata dal marito e si sono trasferiti a Milano. E l'aria è un po' più libera. Alfonsina va, ma ha un sogno. E Luigi l'accompagna in questo sogno. Partecipare al Giro d'Italia. Sono venuta a iscrivermi. È una donna. Sì, e non si può. Ma c'è scritto nel regolamento. No, ma non si può. Ma c'è un modo? È il 1924, il modo si trova perché l'iscrizione è a pagamento, ci sono poche iscrizioni, non più di 90. E alla fine ci si accomoda e viene iscritta col nome di Alfonsine Strada. È sfuggito a tutti, ma il giorno alla partenza i giornalisti le vanno accanto, lei porta dei bei calzoncini alla svava, è coperta, certo, è molto dignitosa, qualcuno pensa sia la fidanzata di un corridore. Allora, chi è il suo fidanzato? Quello là. Ma quello non corre. Sì, corro io. Corre lei. La Gazzetta dello Sport fa grande titolo. Una donna al Giro d'Italia. E si comporta bene, Alfonsina. Le prime quattro tappe brucia la velocità degli uomini. Alcuni la dileggiano. Alcuni dicono, ma che cos'è il circo? Ci sono i nani, gli orsi, le femmine, ma che cos'è? Hanno paura di essere umiliati da Alfonsina. Non tutti però. Molti dei campioni la rispettano. Poi arriva la drammatica tappa Aquila-Perugia. Le biciclette pesano più di 20 kg e le strade nel 1924 sono tutte sterrate, piene di buche. Alfonsina col temporale più volte cade e più volte fora, due volte e due volte ripara. Il freddo di quella pioggia che ti si infila nelle spalle, nelle ossa. Alfonsina è stanca e perde l'equilibrio di nuovo, prende una buca e la bicicletta si ribatta e il manubrio si rompe. Come si fa? Come si fa senza manubrio? Alfonsina! Ci sono io! Esce una donna con una scopa. Leghiamo la scopa al manubrio! E Alfonsina finisce la gara imbracciando una scopa con due ruote sotto. E 10 ore in ritardo rispetto a tutti gli altri, ma ha finito con un coraggio da leonessa, la regina del giro, quella che non si arrende, quella che non molla mai. No, non si può, è fuori gara, non si può, è fuori gara, non si può, non si può fare con una scopa. Si è mai vista una che finisce la gara con la scopa? Ma tutti la amano, perfino il re le ha scritto una lettera, si è complimentato. Le donne tifano per lei, gli altri corrono, lei sa invece emozionare tutti. La riammettono al giro, ma fuori gara. Il primo giugno, solo 30 partecipanti su 90 tagliano il traguardo. Tra quei 30 c'è Alfonsina. Ha percorso 3.613 chilometri. Un record, un'impresa straordinaria per una donna che segna la storia. Costante Girardengo diventa suo amico. Lei continua a gareggiare anche a livello internazionale, batte 36 volte i colleghi maschi. Non potrà più prendere parte veramente al Giro d'Italia, ma non smette di amare la bicicletta. Anzi, apre una bella officina a Milano con suo marito, mettono a posto le biciclette, lei va al lavoro tutte le mattine in bicicletta, è già una donna ecologica, è avanti. E quando si stanca di pedalare, è la prima donna a comprarsi una moto rossa Guzzi e a girarsi l'Italia. Non smetterà di stare in sella per guardare in avanti. E grazie a lei, in Italia, abbiamo gare di ciclismo femminile e il suo fuoco non si spegne. E oggi? No, dico, quando guardate la televisione, quante gare femminili vedete? Patinaggio artistico, il nuoto, ciclismo femminile, basket femminile, calcio femminile. Il 30% della programmazione è dedicata alle donne, il 70% ai masculi. Eppure, non tutte le donne nel mondo possono esercitare gli sport, e non in tutti i paesi del mondo. Eravamo partite svantaggiate già nel 1889, la prima Olimpiade. Potevamo fare tennis e croquet. Ci siamo emancipate, ma non dappertutto si può correre. È il 1991 e a Mogadiscio nasce Samia. Nasce nell'anno sbagliato, è l'anno in cui cade un dittatore e due fronti fondamentalisti si scontrano. Sono pallottole dappertutto, bombe che scoppiano. È un unico ordine: le donne non devono uscire di casa se non coperte dal burka. Meglio che non frequentino la scuola, figurarsi correre. Nessuno a Mogadiscio può arrivare al mare. Mogadiscio è sul mare, ma il mare è il luogo in cui i fondamentalisti si esercitano meglio con le pallottole. Pallottole che girano nell'aria, senza ostacoli. E Samia non può andare al mare. Impara a correre nel cortile di casa. Poi un giorno, disobbediente a ogni regola, arriva fino al mare. Lo tocca l'acqua che lei ama tanto. Si arrotola nella sabbia con il suo migliore amico e Ali la vede che quando lei corre si trasforma. Quando lei corre prende una forza, sei una guerriera, Samia. Non hai paura di niente, io ti allenerò. Ma come si fa ad allenarsi a Mogadiscio? Si esce di notte a Mogadiscio con il burka e si va vicino allo stadio di Cons. Lo stadio è circondato da filo spinato, ma c'è un buco e Samia di notte attraversa quel buco. Finisce in mezzo allo stadio e con Ali, che usa un vecchio orologio come cronometro, si allena 8 chilometri ogni sera e si diventa sempre più veloci con le bottiglie di plastica legate ai polpacci. Finché a 10 anni Samia vince la gara di Mogadiscio, batte perfino gli uomini e vince una medaglia d'oro. Piccola guerriera, ah, piccola guerriera mia, che cosa vuoi diventare tu? Io, papà, voglio andare alle Olimpiadi. Ma se non sai neppure quando ci saranno le Olimpiadi. Le Olimpiadi saranno a Pechino nel 2008, io sarò abbastanza grande per partecipare. Vuoi correre? E va bene. Suo padre per la prima volta gli trova un paio di scarpette, perché quelle che ha usato fino ad allora erano quelle dei fratelli. Samia è in una casa piccola di fango, 3 fratelli, 2 sorelle, poverissimi. Il padre vende verdura al mercato. L'unico regalo che le fa è il paio di scarpe e una fascia di spugna per reggersi il sudore mentre corre. E il suo portafortuna, ah no, un altro portafortuna, ha trovato in mezzo alla strada, quel giorno che ha vinto la medaglia, un giornale, e sul giornale c'era la foto di Mo Farah, il campione somalo che ha vinto i 5.000 e i 10.000 metri. La ritaglia e la mette sopra il suo materasso come fosse un santo, a proteggere quel viaggio che la porterà alle Olimpiadi. Perché nel 2008 un signore in giacca e cravatta si presenta a casa di Samia e la invita a prendere parte alle Olimpiadi. Ha vinto molte gare, disobbedendo a ogni regola. E lei accetta e vola. Vola al di là del mondo. È a Pechino. E si prepara a correre i 200 metri. Accanto a lei ci sono le atlete che vengono dalle altre parti del mondo. Veronica Campbell Brown, una pantera nera, bella, perfetta, coi muscoli lucidi e la tuta magnifica, tecnica. Samia indossa un paio di leggings neri fino al ginocchio, una maglia 2 volte più grande di lei e la spugna di suo padre. Ci si prepara ai blocchi. I blocchi con cui lei si è esercitata erano cassette della frutta. Questi sono blocchi veri. e ha paura. C'è un metodo, Ali gliel'ha insegnato. Non devi avere paura. Guardati le dita e conta. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Partite! Veronica Campbell Brown è una gazzella, morde l'aria, le altre corrono dietro. Samia arranca, ma continua a correre. Le altre hanno già passato la curva e sono oltre il traguardo, tirano il fiato e Samia ancora indietro. È in curva, ancora 50 metri indietro, 32 secondi per fare 200 metri. Ma accade il miracolo. Negli ultimi 50 metri, quando Samia è sola, tutto lo stadio si alza. Cominciano a battere le mani per quella bambina venuta dalla Somalia, da un paese in guerra in cui alle donne è proibito fare tutto. Applaudono e Samia passa al traguardo, prende la sua bandiera e fa il giro d'onore dello stadio. Lo fa per tutte le donne che come lei avrebbero voluto correre. I giornalisti arrivano vicino a Samia. È una bella storia questa per gli occidentali. La diciassettenne povera che sfida le regole dei fondamentalisti. Samia invece li guarda negli occhi. Non mi dovete intervistare adesso, perché adesso io sono ultima. Ma a Londra io ci arriverò e sarò prima, prima. Prima. Il ritorno a Mogadiscio è inaspettato. Per una giovane donna arrivata tra le finaliste dei 200 metri ci dovrebbe essere festa. Ma all'aeroporto non c'è suo padre. Un colpo di pistola l'ha raggiunto al mercato. I fondamentalisti hanno ugito. Non gradiscono ciò che sta facendo Samia. Sua sorella Odan è partita per il nord dell'Europa e Samia ha una sola possibilità. Una giornalista di Al Jazeera le dice: non puoi rimanere qui, passi in Etiopia. In Etiopia ti potrai allenare, dall'Etiopia poi raggiungerai Londra. E io ti aiuterò. Samia passa in Etiopia, ma scaduto il permesso di soggiorno in Somalia non glielo rinnovano. Ed è una clandestina. Hai una sola possibilità: tornare in Somalia e rinunciare per sempre ai tuoi sogni o partire. Per dove? Il grande viaggio. $700 per prendere una Land Rover che attraversa il deserto. 72 uomini chiusi dentro una Land Rover, aggrappati ai fili di ferro. Non ci si può fermare, né bere, né avere fame, né essere stanchi. Perché quando sei stanco e molli la presa, cadi. E nessuno t'aspetta. E il deserto è un sentiero di corpi, è un cimitero dove nessuno li piange. 1200 chilometri di deserto e poi si arriva in Libia. E in Libia finisci in carcere perché sei senza documenti. E Samia con sé ha soltanto la fascia di spugna di suo padre, la foto di Mo Farah e un gruzzoletto di soldi che le ha mandato Odan. Ma i soldi sono finiti e in carcere o subisci violenza o paghi. I carcerieri ti danno il cellulare. Devi chiamare qualcuno che invii i soldi. E Odan invia i soldi e Samia si salva. Poi il viaggio fino a raggiungere Tripoli. È un inferno dentro un container dove si mangia la carta per non morire di fame. E quando si arriva a Tripoli bisogna pagare il gommone. I trafficanti te lo dicono. Il viaggio può essere pericoloso. Non si sa se arrivi. Ma niente può essere più pericoloso di quello che hai passato. E paghi. Ma dopo 3 ore il gommone è in avaria. E Samia deve aspettare. È gennaio. Bisogna aspettare marzo. Che il mare sia più quieto. E Samia trova un peschereccio, una barca, una bagnarola. A marzo paga altri $1,000 e con 300 persone prende il mare. Questa volta la bagnarola non si ferma, 2 giorni, fila, liscia, nel mare, tant'è che Lampedusa sembra vicina, vicinissima. Quando un tratto accade, il motore va in avaria. Non è possibile, è come correre i 200 metri, essere al traguardo e trovare un muro invisibile che ti respinge. Per 15 ore la barca rimane in mezzo alle onde, poi arriva la barca italiana e tutti sorridono e pregano Allah e si sbracciano. Siamo qui! La barca sta per rovesciarsi. I trafficanti di uomini battono col bastone sulle schiene. State fermi! Il capitano della barca italiana comincia un dialogo fitto, via radio, con i trafficanti. E si capisce bene che non si andrà avanti. Non ci trainano, ci portano indietro. No, ci portano indietro. Ma come si fa a tornare indietro? Il capitano della nave italiana lancia 10 funi. Un uomo si arrampica sul bordo e... splash! Si è gettato. Le onde sono gigantesche. La testa va su e giù. Un altro uomo si getta, una donna che ha veli colorati e pare richiudersi dentro al mare. E il mare, e il suo mare, non la può tradire. Samia lo sente. Si arrampica sul bordo, ruota le gambe, guarda il mare e salta verso la libertà. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Alle Olimpiadi di Londra. Mo Farah, il campione somalo, a 25.000 e 10.000 metri, ha alzato verso il cielo la medaglia d'oro e la foto di una piccola guerriera somala, Samia Yusuf Omar, morta in mezzo alle onde del Mediterraneo, mentre correva verso la libertà. Neppure il mare poteva fermarla. Blackbird fly into the light of a dark night. Io non sono una voce sola. Sono tante voci. Sono tutte le mie sorelle. Sono Shazia, sono Kainat, sono Maison, sono Samia, sono Amina. Sono quei 66 milioni di ragazze che non possono andare a scuola. Le persone mi chiedono perché l'istruzione sia tanto importante, soprattutto per le ragazze. La mia risposta è sempre la stessa. Ho imparato una cosa dai primi capitoli del Corano. La parola Iqra, che significa leggi. E la parola Walkalam, che significa con la penna. Una ragazza, un ragazzo, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. Malala nasce nella bella, ridente valle dello Swat in Pakistan. È figlia di un maestro elementare e ama le parole e i numeri. Un maestro che ha sacrificato tutta la sua vita per costruire scuole per ragazze. Un maestro che ha un motto: insegnate ciò che è chiuso dentro le pagine dei libri, ma anche il mistero del volo degli uccelli e l'onore che c'è nel fallire piuttosto che nell'imbrogliare. Malala nasce in un paese dove, quando un bambino dal primo vagito, si fa festa. Quando una bambina dal primo vagito è un lutto. ma per suo padre è una festa che sia nata una femmina. L'ha chiamata col nome di una guerriera e quella guerriera è innamorata delle parole e dei libri. Invece di farsi l'enné con i fiori, si scrive versi di poesie e formule matematiche, che sono sempre utili. Malala, a 10 anni, vede il suo futuro ribaltato. I talebani vanno al potere. Più di 400 scuole per ragazze vengono incendiate. Una donna che studia, una donna che occupa un posto di potere negli ospedali, nelle biblioteche, è la peggiore condanna per i talebani. Le donne devono stare in casa e devono essere coperte. E Malala disobbedisce, continua ad andare a scuola. E quando un giornalista della BBC intervista suo padre, lei è accanto a suo padre e continua a parlare, come fanno le donne a volte. Papà, glielo devi dire che è ingiusto, è profondamente ingiusto. Chi è che parla? Mia figlia. Posso parlare con lei? Il giornalista sente che Malala non solo ha un fiume di parole, ma passione, intelligenza e capacità per esprimersi. E Malala scriverà un articolo sul suo blog già a 11 anni, ogni sera. E le sue parole si diffondono nel mondo. E questo non è gradito ai talebani. Comincia a essere minacciata, ma non smette di andare a scuola. È una bella mattina d'ottobre. Ha fatto un bel compito di storia. È contenta, sta ritornando in autobus, quando un uomo barbuto, avvolto da una sciarpa, ferma l'autista e chiede da dove viene questa scuola, o meglio questo autobus. Dalla scuola. Quale scuola? La Patchmore School. L'uomo fa segno a un altro che entra nella parte posteriore, percorre il corridoio. Chi è Malala? Le amiche sono impaurite, non vogliono dirlo, ma per un riflesso incondizionato si voltano e la guardano. L'uomo estrae una pistola e la punta in faccia a Malala e spara. Spara. E il proiettile percorre l'orbita di Malala e si conficca nella spalla. Lei si riversa in avanti in un mare di sangue. Altri 2 colpi che colpiscono un ginocchio e la mano di un'amica. Tutti urlano, l'uomo scappa. Malala è in fin di vita. Incosciente viene portata a casa e suo padre la pensa morta, prepara il funerale. Poi il miracolo. Malala pesa un filo, si riprende. Viene portata in volo lontano dal Pakistan, a Birmingham. Sono nata in un paese nato a mezzanotte. Ed era mezzogiorno, quando sono quasi morta. Sono uscita una mattina per andare a scuola e non ci ho più fatto ritorno. La mia valle ora è molto lontana. Io vivo a 5 ore e indietro rispetto al fuso orario del Pakistan. Ma il mio paese è secoli indietro rispetto all'Inghilterra. Qui dai rubinetti esce acqua fredda e calda, con un solo colpo all'interruttore si accendono le luci e le lampade a petrolio sono una cosa del passato. Qui esiste il cibo confezionato. Qui, guardando fuori dalla finestra, ogni cosa è ordinata e pulita. Ma io continuo a ripensare alla mia valle e so che un giorno tornerò. Prenderò posto vicino a Moniba, la mia amica. E altre ragazze con me continueranno a studiare. E la rivoluzione non si può fermare. Viviamo nell'era moderna. E tutti crediamo che niente sia impossibile. L'uomo ha raggiunto la Luna e presto saremo anche su Marte. Per questo dobbiamo essere determinati a raggiungere il nostro sogno. Istruzione di qualità per tutti. Quindi, cerchiamo uguaglianza e giustizia per tutti. Non solo i politici e i leader mondiali. Tutti dobbiamo contribuire. Me, voi. È un nostro dovere. Dobbiamo lavorare, non aspettare. Dobbiamo diventare la prima generazione a decidere che è l'ultima volta che accade questo. Le aule vuote, i bambini abbandonati, il potenziale sprecato. È l'ultima volta che Una ragazza o un ragazzo trascorrono l'infanzia in una fabbrica. Che è l'ultima volta che una bambina viene costretta a sposarsi. Che è l'ultima volta che un bambino perde la vita in guerra. Che è l'ultima volta che un bambino o una bambina rimangano fuori dalla scuola. Che questa sia l'ultima volta. Costruiamo il finale. Costruiamo un futuro migliore. Proprio qui. Proprio ora. Insieme.